ad alta voce. Valentina Carnelutti legge Lida Mantovani di Giorgio Bassani. Nell'estate del 1928, Lida compì 25 anni. Una sera, mentre lei e Oreste Benetti sedevano ai loro posti abituali, divisi come sempre dal tavolo e dalla lampada, a un tratto, con molta semplicità, il legatore le domandò se acconsentiva a sposarlo. Seria, senza manifestare la minima sorpresa, Lida lo fissò. Le pareva di vederlo per la prima volta. Considerava con straordinaria attenzione ogni particolare del suo volto, gli umidi occhi nerissimi, la fronte alta e bianca, chiusa da un arco di capelli grigio ferro tagliati corti a spazzola come li portano i militari e certi preti, e si stupiva di trovarsi lì a prendere nota di tutto questo così tardi, soltanto adesso. Doveva essere sui 50, almeno. Di colpo fu presa da un senso di angoscia. Non riuscendo a dire niente, si volse in cerca d'aiuto verso la madre, la quale, alzatasi in piedi, si era accostata al tavolo appoggiandovisi con entrambe le mani. Se non che la smorfia di pianto che già cominciava a piegarle le labbra non fece altro che aumentare la sua confusione. «Cos'è che hai?» le gridò rabbiosa in dialetto. «Si può sapere che cos'hai?» Si levò su di scatto, si diresse verso la scala, ne fece di corsa i gradini e uscì sbattendo la porta. Discese dall'altra parte giù nel portico. Raggiunta infine la strada, subito si addossò al muro di fianco alla buia cavità del portone spalancato e guardò il cielo. Era un magnifico stellato. In distanza si sentiva suonare una banda. Da dove suonavano? Si chiese col desiderio improvviso, spasmodico, di confondersi in mezzo a una folla allegra e scamiciata, tenendo un gelato in mano come una ragazzetta qualsiasi. Da San Giorgio nello slargo al lato della chiesa, oppure da Porta Reno, magari in piazza Travaglio stessa. Ma ormai il suo respiro non era più così affannoso. Ed ecco, da dietro, attraverso la parete di vecchio mattone a cui aderiva con tutta quanta la schiena, ecco giungerle la voce bisbigliante di Oreste Benetti. Parlava sua madre, adesso, tranquillo, come se niente fosse accaduto. Quello che diceva, chi lo sa. Ad ogni modo bastava la sua voce, il pacato, sommesso ronzio della sua voce, a persuaderla alla calma, a invitarla a rientrare. Quando riapparve in cima al pianerottolo era tornata perfettamente padrona di sé, dei propri pensieri e dei propri gesti. Chiusa la porta, discese giù per la scala, né troppo in fretta né troppo adagio, badando a non incrociare lo sguardo con quelli del legatore e della madre. Durante la sua assenza i due erano rimasti dove si trovavano, lui seduto al tavolo, lei in piedi. Ed ora stavano là, zitti, scrutandola in viso con aria interrogativa. Passò accanto al tavolo, si sedette di nuovo al suo posto, si strinse appena nelle spalle. E l'argomento del matrimonio, nelle quasi 2 ore che l'ospite volle ancora rimanere, come del resto nel corso delle altre innumerevoli serate che seguirono, non venne più toccato. Con questo non è da pensare che Oreste Benetti nutrisse qualche dubbio circa la risposta che prima o poi gli sarebbe venuta da Lida. Anzi, per lui, fin dal primo momento, fu come se Lida avesse già acconsentito, come se fossero già fidanzati. Ciò risultava evidente dal suo diverso modo di trattarla, sempre riguardoso e gentile, certo, ma con dentro, sotto sotto, una sorta di autorità che prima non c'era. Lui solo, a questo punto, sembrava voler dire, era in grado di guidarla nella vita. Secondo lui, Lida come carattere aveva un grosso difetto. Era capace di dichiarare esplicitamente, in tal caso non esitando a chiamare a testimone Maria Mantovani con un'occhiata laterale, quello cioè di star sempre con la faccia girata indietro a rimasticare cose passate. Perché mai al contrario non si sforzava di guardare un poco dalla parte opposta, verso l'avvenire? La superbia è una gran brutta bestia. Come il serpente va a infilarsi dove uno meno sospetterebbe. Bisogna essere ragionevoli, sospiravamo di conclusione. Bisogna saper mantenere la calma e tirare avanti. Altre volte, invece, in apparenza contraddicendosi, era proprio lui, seppure per accenni, per allusioni e insinuazioni accuratamente velate, e Lida teneva dietro all'abile, indefesso lavorio del suo cervello senza mai reagire, come ipnotizzata. Era proprio lui a riproporle il quadro della sua giovinezza ignara di regole, randagia e l'urgente necessità di riscattarsene con una maturità migliore, con un'esistenza dignitosa e serena. E a questo proposito, sì, certo, lasciava anche intendere, siccome l'amava, lui, naturale, capiva, giustificava, perdonava tutto. Il suo sentimento non era però così cieco, fosse ben chiaro, da impedirgli di ricordare e di ricordarle che aveva commesso un grande peccato, un peccato mortale da cui sarebbe stata assolta solamente il giorno che l'avesse sposato. Cosa mai si era immaginata? Si era forse sognata che un uomo della sua specie, che fra l'altro, se ne rendeva ben conto, aveva quasi 30 anni più di lei, potesse pensare all'amore al di fuori del matrimonio cattolico? Un dovere, una missione. Il vero credente non poteva concepire la vita e di conseguenza il rapporto fra l'uomo e la donna in maniera diversa. Avevano comunque tutti e tre i nervi così tesi, stavano di continuo talmente allerta che bastava pochissimo perché il precario equilibrio delle loro relazioni entrasse in crisi. Dopo restavano turbati, si tenevano lunghi bronci. Una volta, per esempio, riferendosi a Ireneo, il legatore disse che lui al bambino gli voleva davvero bene, proprio come se fosse suo padre. Tradito dalla foga, si era abbandonato un po' troppo. «Ma senti, non sei lo zio Oreste, tu?» esclamò a questo punto Ireneo, che contava già 7 anni e ogni sera, prima di farsi mettere a letto, aveva preso l'abitudine di mostrargli i compiti. «Si capisce, per quanto... ma facevo così per dire, che cosa ti salta in mente?» La confusione del legatore diede d'un tratto a Lida il senso preciso della propria importanza. Mentre affannato il bravo uomo continuava a parlare al bambino, lei e la madre si guardarono e si sorrisero. Ma i momenti di aridità e di cattiveria erano tutto sommato piuttosto rari. A prevenirli o a superarli, in ogni caso, provvedevano i doni. Fin da principio, Oreste Benetti ne era stato prodigo. Sebbene avesse fatto capire che dopo le nozze sarebbero andati ad abitare tutti quanti assieme un villino fuori Porta San Benedetto, per l'acquisto del quale lui stava appunto trattando con una impresa di costruzioni, ciò nonostante fece montare l'impianto della luce elettrica e imbiancare le pareti. Acquistò alcuni mobili, una stufa economica di ghisa, un quadro, vari utensili da cucina, una coppia di vasi da fiori, eccetera, come se il matrimonio, a cui era evidente non smetteva un attimo solo di pensare, non avesse la minima intenzione di affrettarlo. Era innamorato, diceva con quei suoi doni, spesso inutili, è vero, ma talora un po' assurdi. Se la sposava, la sposava perché l'amava. In vita sua non era mai stato fidanzato nemmeno una volta, prima da giovane e poi da uomo compiuto, mai che avesse gustato il piacere inebriante di fare dei regali a una fidanzata. Adesso che questo piacere gli era consentito, aveva ogni diritto di pretendere che le cose procedessero ad agio, per gradi, nel rispetto rigoroso di tutte le regole. Capitava ogni sera alla medesima ora, alle 9:30 in punto. Lida lo sentiva venire di lontano, fin dalla strada. Ed ecco la scampanellata vigorosa che lo annunciava, ecco il suo passo tranquillo su per la scala, dal lato del portico. Ecco di lassù, dall'alto del pianerottolo, il suo saluto, il suo grido giocondo. «Buonasera, mie signore!» Cominciava a scendere, infine, seguitando a canticchiare fra i denti l'aria del barbiere, per interrompersi a metà della scala con una breve tosse educata. E subito la stanza era piena di lui, del piccolo uomo dai capelli grigi che aveva un po' del soldato, un po' del prete, della sua presenza, calda, viva, imperiosa. La scena del suo arrivo era sempre uguale, da anni non cambiava. Sebbene potesse prevederla in ogni particolare, tutte le volte Lida era invasa da una specie di calma stupefazione. Lo lasciava venire avanti, senza nemmeno accennare ad alzarsi. Ma prima, invece, ai tempi dei tempi. Oh, a quell'epoca, quando una scampanellata altrettanto vigorosa significava che David, chiuso nel suo grosso cappotto blu dal bavero di pelliccia, battendo i piedi sui ciottoli per l'impazienza e per il freddo, l'aspettava come d'accordo dinanzi al portone di strada. Mai aveva voluto entrare, mai aveva sentito il dovere di presentarsi. Allora, al contrario, le rimaneva ben poco tempo per tirare fuori dall'armadio il soprabito, infilarselo e quindi, richiuso l'armadio e accostato il viso alla specchiera verticale, incipriarsi in fretta e furia e aggiustarsi i capelli. Non le erano concessi che pochi istanti, e tuttavia ce n'era d'avanzo perché dentro la specchiera, piccola e lustra di capelli tirati indietro sulla nuca, la luce proveniente da Tergo la faceva sembrare quasi calva, vedesse apparire e sparire svelta svelta di là dalle proprie spalle la testa grigia di sua madre. «Cos'è che hai da guardare?» si girava di scatto a gridarle. «Sai cosa ho da dirti? Ne ho abbastanza di te, di questa vita!» Usciva sbattendo la porta. A David non piaceva attendere. Ancora fremente, aggrappata al suo braccio, si lasciava portare. Anziché prendere a destra e puntare verso il centro della città, di solito scendevano per via Salinguerra fino a raggiungere i bastioni e di qui, poi camminando di buon passo lungo lo stradello che c'era lassù in cima, arrivavano in una ventina di minuti a Porta Reno. Era Davide a volere così. Siccome aveva fatto pace con la famiglia, per poter staccarsene più tardi a migliori condizioni, diceva, ma laurearsi, intanto bisognava pur che si laureasse. A questo punto valeva la pena che loro due badassero a fare un po' d'attenzione, evitando se non altro di mostrarsi in giro assieme. Era indispensabile, ripeteva di continuo, magari anche adesso. Data la situazione, lei stessa doveva convincersi che su certi sbandieramenti, e con questo si riferiva ai primissimi tempi, quando la sera la portava come per sfida addirittura al Salvini, quando andavano a sedersi di pieno giorno nei caffè principali, quello della borsa compreso, quando proclamava che lui della vita noiosa e ipocrita che aveva condotto fino allora, università, amici, famiglia, ne aveva più che abbastanza. Su certi sbandieramenti, ormai occorreva farci sopra una croce. Ma del resto non era più bello. Si affrettava ad aggiungere con un sogghigno. Non sono proprio i contrasti, i sotterfugi, il più valido incentivo dell'amore? In ogni caso, un fatto era sicurissimo. Lungo quel sentiero delle mura, nonché fra qualche istante al piccolo cinema di Piazza Travaglio dove stavano dirigendosi, nessuno di casa e dell'ambiente avrebbe mai potuto incontrarli. Quantunque tutta intirizzita nel corpo e nell'anima, lei gli si teneva a fianco, in silenzio. Se non che, di lì a poco, non appena si ritrovava dentro l'affollata e fumosa sala del Diana, seduta accanto a David, con gli occhi fissi allo schermo, subito i nervi le si distendevano. Non di rado i film raccontavano storie d'amore, nelle quali a lei pareva di riscontrare molte somiglianze con quella di cui continuava, nonostante tutto, a sognarsi protagonista. Cosa che nei momenti culminanti la induceva non soltanto a guardare dalla parte di David, nella penombra attraversata a mezz'aria dal lungo azzurro fascio di luce che scaturiva dal proiettore retrostante, ne intravedeva il collo alto e magro, con la sporgenza giusto al di sopra del nodo della cravatta del grosso pomo d'Adamo, il profilo scontento, sempre come assonnato, i bruni capelli imbrillantinati un tantino crespi sulle tempie, ma a cercargli la mano, a stringergliela tormentosamente. E David, pronto come era a rispondere al suo sguardo e a ricambiare la stretta, appariva tranquillo lui, perfino di buon umore. Però non c'era mai da fidarsi. Infatti, dopo aver lasciato per un po' che lei gli tenesse la mano, eccolo certe volte ritirarla bruscamente. Si scostava con tutta la persona. Oppure, nel caso che non si fosse ancora tolto il cappotto, si levava in piedi per sbarazzarsene. «Che caldo!» lo sentiva sbuffare. «Non si respira!» E intimorita non insisteva. Si affrettava a riportare gli sguardi sullo schermo e da allora in poi Davide era laggiù, al centro del grande grigio rettangolo luminescente che occupava il fondo della sala, intento a accendersi una sigaretta con le mani inguantate, a ballare in smoking, a fissare occhi negli occhi donne bellissime, meravigliose, a premersele contro il petto, a baciarle lungamente sulla bocca. Il film la prendeva a un punto tale, insomma, che più tardi, al termine dello spettacolo, quando si ritrovava all'aperto, se David, insinuato un braccio sotto il suo e facendo a un tratto la voce carezzevole, le proponeva per riaccompagnarla a casa il medesimo percorso che avevano compiuto all'andata, ogni volta, come svegliandosi di colpo da una specie di sonno, trasaliva con violenza. «La strada tanto si allunga di poco», incalzava David. «È tardi, la mamma mi aspetta per mezzanotte», provava a rispondere. «E poi fa freddo, sarà tutto bagnato». «Come sarebbe stato meglio, intanto», pensava, «se fossero tornati verso casa tagliando giù per il centro. Con tutta la nebbia che c'era in giro, in quel paio di ore la nebbia era talmente aumentata che le lanterne gialle dei lampioni non si vedevano quasi più. Nessuno, garantito, sarebbe stato in grado di notarli. Nemmeno se fossero passati dal listone, nemmeno se avessero preso percorso Giovecca. Avrebbero camminato ad agio lungo i marciapiedi resi viscidi dall'umidità, avvertendo le labbra e le ciglia bagnarsi di goccioline tiepide, stretti l'uno all'altro come due fidanzati veri, regolari, e parlando, se Dio vuole, David soprattutto. Di che cosa avrebbe parlato lui? Forse del film. Che razza di gigione il primo attore, avrebbe detto, e anche la diva in fondo, quale oca. O magari di sé, dei suoi studi, dei suoi progetti per il futuro. Da ultimo, prima di separarsi, sarebbero perfino potuti entrare in qualche piccolo caffè, uno di quelli dalle parti del Saraceno di via Borgo di Sotto. Sedutisi in un angolo, David avrebbe ordinato due bicchierini. Dopodiché, nel torpore che sorbendo l'anisetta e pensando al letto e al sonno vicini l'avrebbe invasa, lei si sarebbe sentita, se non proprio felice, perlomeno abbastanza d'accordo una volta tanto con se stessa e con la vita. Ma invece cedeva. E subito, mentre si allontanavano in direzione delle mura dai capannelli di ragazzotti del quartiere che dinanzi alle porte a vetri del cinema, rimaste spalancate, sostavano tuttora a fumare, a discutere ad alta voce di sport o di chissà che altro, oppure a mangiare caldarroste comperate per pochi centesimi dalla vecchia con lo scialle nero, i mezzi guanti di lana al sottanone grigio, curva immancabilmente lì accanto sul suo fornelletto di ghisa, subito cominciavano a levarsi fischi, urli, pss, pss, di scherno, parolacce. Affrettare il passo non serviva. La distanza via via crescente sembrava rendere le grida anche più acute, anche più penetranti. La inseguivano da presso. Erano come mani fredde e umide che cercassero di afferrarla, di toccarla sotto le vesti. Al primo buio, al primo prato, veniva rovesciata nell'erba. Col mento sopra la spalla di lui, senza abbassare le palpebre, si lasciava andare. Dopo era la prima a rialzarsi. E se a un certo punto era stata assalita dal desiderio improvviso di dibattersi sotto di lui, di morderlo, di fargli del male, David a questo non resisteva mai. Allentando immediatamente la lunga schiena, le si abbandonava addosso con tutto il peso. Ecco che quella furia, quella specie di rabbia che in ultimo l'avevano indotta a strapparlo via da sé, davano luogo in lei d'un tratto a un senso tremendo d'angoscia, di paura. Com'era già lontano, pensava mentre si affannava a tirarlo su, a rassettargli l'abito. Come non gliene importava più niente, ormai. Eppure, perché fargliene colpa? Forse non era in grado di immaginarlo lei in che modo la serata sarebbe finita. Da quando si incontravano dinanzi al portone di strada e poi, senza quasi scambiarsi un saluto, cominciavano a camminare in fretta verso le mura, tutto ogni volta era fin troppo prevedibile. Si avviavano. Se ne rendeva perfettamente conto. Freddo, distratto, qualsiasi cosa che adesso le fosse venuta da lui non avrebbe potuto che ferirla. Tuttavia lo provocava. Gli chiedeva, per esempio, «Com'è che si chiama la tua mamma?» E siccome David taceva, rispondeva lei per lui. «Teresa», sillabava. Non era buffo che lei gli facesse domande talmente inutili e che fosse poi lei, staccando le sillabe come una scolaretta interrogata, a rispondere a se stessa? «E Marina?» continuava. «Com'è che si chiama tua sorella Marina?» Scoppiava a ridere, quindi ripeteva «Marina». Accelerando il passo sul terreno indurito dal gelo, David sbadigliava. Però si decideva a parlare, finalmente. Faceva discorsi strani, difficili, dove qualcosa di vero c'era senz'altro, ma anche, e bastava per accorgersene stare attenti al tono che aveva assunto la sua voce, parecchio di inventato. raccontava in genere di sé e specialmente di una sua relazione sentimentale con una signorina della migliore società della quale, senza rivelare il nome, non smetteva mai di vantare, oltre alla bellezza, le abitudini mondane e gusti raffinati e aristocratici. I loro incontri, i loro contrasti, perché spesso litigavano a quanto pareva, si svolgevano sempre al centro di ambienti eccezionali. Un ballo di beneficenza al Circolo dell'Unione, quello cioè della nobiltà, una rappresentazione di gala al Teatro Comunale, una galoppata in campagna con alla fine tanto di ricevimento in qualche bella villa circondata tutt'attorno da un gran parco. Si trattava insomma di un rapporto non facile, ostacolato dalle rispettive famiglie, certo, ma unicamente per via delle religioni diverse. Una vicenda comunque dove della cosa che loro due avevano fatto poco prima sul prato non si parlava nemmeno per sbaglio. Frattanto erano scesi dai bastioni, avevano imboccato via Salinguerra. E se fino a quel momento lei era rimasta a sentire in silenzio, quasi trattenendo il fiato, non appena capiva dai profili delle case e dai lampioni stradali che fra pochi istanti avrebbero dovuto separarsi, ciò le metteva addosso un'agitazione nervosa di tale intensità da farle a volte temere di non riuscire a padroneggiarla. Oh, come li odiava adesso, il proprio paltoncino liso e striminzito, i propri capelli scomposti, appiattiti sulle tempie dall'umidità, le proprie mani volgari deformate dal lavoro e dai geloni. Ma d'altra parte, che cos'altro poteva fare a questo punto se non vedere di calmarsi? Piccola di statura, senza la minima attrattiva né del fisico né del carattere, fosse stata un po' più puttana almeno. Siccome la sua sorte era già segnata, tanto valeva accettarla fino da ora. Chi lo sa, se lei fino da ora si fosse messa il cuore in pace, forse David gliene sarebbe stato riconoscente. Forse in futuro lui sarebbe potuto arrivare a trattarla come la vecchia amica alla quale è consentita qualsiasi domanda, in grado di dare qualsiasi consiglio, anche il più scabroso. Era poco? Poco, si capisce. Tuttavia, sempre meglio che niente. Ormai davanti al portone, entravano nel portico. Seppure con la voce ridotta a un bisbiglio, David continuava a parlare. Che cosa stava dicendo? Subito dopo aver preso la laurea, diceva per esempio, avrebbe piantato non soltanto Ferrara, ma l'Italia. Era stufo di vivacchiare in provincia, di marcire in quel buco di città. Quasi di sicuro se ne sarebbe andato in America. E per starci, per stabilircisi definitivamente. Con chi ci sarebbe andato in America? Si era azzardata a chiedergli una volta. Da solo, oppure con la signorina che gli piaceva tanto? Da solo, aveva risposto seccamente. Lui non era tipo da sposarsi, aveva aggiunto, con nessuna. Adesso come adesso non aspirava che a cambiare aria. Già glielo aveva detto, e basta. Lei non aveva replicato niente. Si era limitata ad annuire nel buio. Un'altra volta però, e se ne sarebbe rammaricata più tardi a letto, quando per il tic-tac della sveglia posta sul comò e per l'ansimare che sua madre faceva dormendo non le riusciva di prendere sonno, un'altra volta, a udirlo fare discorsi del genere, le era venuto da ridere. Gli aveva chiesto, e se restassi incinta? Sapeva bene che una simile domanda avrebbe costretto David a trattenersi altri 5 minuti. Ciò che in quei 5 minuti sarebbe stato capace di dire ancora non importava. Importava che prima di andarsene sentisse il bisogno di darle un bacio.